Na EO, na EO, non avanguardia. Neo, Neo. Dark Knight, treni a Silent Hill, cenere sotto i piedi dove sono già qui insieme a Sharon. Ricorda il nome, Shining è di sangue in un solo ring. Vieni a passare la notte qui insieme ai morti viventi. Chiamiamo Babadook e la bambolina Anna. Andiamo a far casino prima dentro la mia stanza. Qui in Italia c'è il silenzio, gli innocenti parlano. Scarica ricordi, poi chiudi gli occhi al psycho. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ben tre volte allo specchio, più che morte, il mio riflesso è la mia sorte. Carico fucili per 28 giorni, dici dopo torni mai. E che sono già un poltergeist, niente mi ferma dalla corsa. Mi strappo dalla morsa, morsa tua, vita mea, anche carne e ossa. Cannibalismo di se stessi, no non è reato. Non siete così onesti, già son mezzo consumato. Tu termini, venerdì, altro che domenica. 13 rintocchi a Swish, bruci per l'eternità. E giù all'inferno mille passeggiate, notti illuminate. Questa notte nightmare, passa per le case. Vampire, morti fuori Li-Fi, sono immune, già lo sai. Quindi morti forte che ti strappo il cuore. Credevo avessi il mio talento in flow. One shot, in un momento chiederò allo Shinigami il Death Note. Sheer Wreck Fade, to Black Blue. Sheer Wreck Say, or get. You try the best in my mind. Without Fallout, without check out, yeah. Sheer Wreck Fade, to Black Blue. Sheer Wreck Say, or get. You try the best in my mind. Without the fallout, without the checkout. Non sopporto il mio hostel, dentro il mio hotel. Nella casa fanno a pezzi come in Soul 3. E 30 giorni di buio, no, non fai più paura. Tengo gli occhi fissi alle colline in mezzo a staradura. Il messaggero è un codice tipo DB. Drag me to hell, i mostri attendono Halloween. Attività paranormale, ombre del passato. Come un trip senza ritorno dai fantasmi del passato. Chi colleziona occhi sai, li chiude nell'armadio. Non ho più paura perché la luce mi ha toccato. E sembri un orfano in alta tensione, qui la nonna porta aperta, attraversala se vuoi l'orrore. Dai che sembri zombie boy, se non sei marchiato, che non riesci a vedere oltre un pezzo tatuato. L'amore è boogeyman come la religione. Ormai il signore è l'uomo nero che rapisce le persone. Servirebbe un tratto con il vostro autoritratto. Vedendo il vostro quadro, il testino ci sarà fatto. Dead silence, e parli piano. Mille mostri e sette notti in mezzo ai cerchi nel grano. N-I-O, N-I-O, nella notte senti un casino, fanculo lacrime della morte. N-I-O, N-I-O, TikTok, click clack. Mi vedi al buio con il mio flow, dark. Sheer Wreck Fade to Black Blue. Sheer Wreck Say, or get. You try the best in my mind. Without full out, without check out, yeah. Sheer Wreck Fade to Black Blue. Sheer Wreck Say, forget. You try the base in my mind. Without the fallout, without the checkout.